Gypsy Boys. Gypsy Boys. E nato un gruppo con 5 ragazzi, poco pazzi, ballerini molto bravi. Il suo nome è Gypsy Boys. Abbiamo tanti idee ma una sola convinzione: cantare, ballare, dare un'emozione a tanti amici, amici, amici. Seguici, seguici, seguici. Oh yeah, siamo mitici, mitici, mitici. Gypsy Boys, Gypsy Boys. Come on, come on. Gypsy Boys, Gypsy Boys. Come on, come on. Se c'è chi, questo cerco io. Questo ritmo è tuo ed anche mio. Fatti vedere, fatti sognare. Siamo noi a cantare e a ballare. Come ti pare, lo puoi fare, lo puoi fare, lo puoi fare. Gelen, gelen, lungo le tromenza. Aracadirum, barba le romenza. Alampiram, zeppo kerjam. Roma ne c'ave, a mezzo sia. Via, via, via, via. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Amaro, chavo, amaro, chavo. Ginja, peo, teno, teno. Ginja, peo, teno, teno. Gypsy Boys, Gypsy Boys. Come on, come on. Gypsy Boys, Gypsy Boys, Gypsy Boys, Gypsy Boys. Come on, come on. Romane chave amen kai sia e chien ko ya kan so de o chi amen ge kai pen e so si tu amen kai shu te amen e chien ge kai pen a tu men ge amen piche manga te platina cha che shu e so si che so si che tu na pa kere e kas che to vi mo kate ama ke vicina tu tu na ave ma ke ta ava va tu na she je bere chave tu mangue, mangue li nati tu chive. E hai te pra la sera tu dem ma tu goji. Ma fia me la vicera te no va tu ser borri. Ama, così gata tu i droga te cerde. Che vene o la stanno. Go vele, gelem, lungo le tromenza. Aracadiru, barba le tromenza. Alam, piram, zepo, kerjam. Roma ne chave, a me sosia. Via, via, via, via. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Amaro chavo, ginja peo teno, teno, ginja peo teno, teno. Gypsy Boys, Gypsy Boys, Gypsy Boys. Come on, come on. Gypsy Boys, Gypsy Boys, Gypsy Boys, Gypsy Boys. Come on, come on.